Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Il cosiddetto nowcasting, ne abbiamo già parlato, è quel ramo della meteorologia che si occupa di fare previsioni a brevissima scadenza, ma di grande dettaglio. Parliamo per esempio di prevedere con qualche minuto di anticipo che una cella temporalesca scaricherà una grande quantità di acqua su un piccolo bacino idrico. In situazioni come queste, che tipicamente sono all'origine di eventi come quelli di Genova degli ultimi anni, anche pochi minuti di anticipo possono fare la differenza. Per non parlare della semplice possibilità di avere indicazioni precise su quello che sta succedendo e quindi sulle aree che saranno più colpite. Per avere questo tipo di precisione servono però degli speciali strumenti meteorologici, cosiddetti radar meteorologici, in grado di guardare letteralmente dentro le nubi. Si tratta però di un'infrastruttura costosa ancora in gran parte da sviluppare. Ebbene, nel corso dell'ultima Smart Exhibition a Bologna è stata presentata un'idea alternativa al radar meteorologico, molto più economica, che sfrutta il segnale televisivo. Questo sistema si chiama Smart Rainfall System e l'ha messo a punto in collaborazione con l'Università, guarda caso, di Genova, Darza, una PMI che per questa invenzione è stata anche premiata. Ne parliamo con l'ingegnere Andrea Caridi, che è tra gli ideatori di questo sistema e naturalmente in forze a questa Darza. Buonasera Caridi. Buonasera. Allora, come funziona? Allora, questo sistema si basa su un concetto estremamente semplice. Chi di noi non si è mai trovato a guardare la televisione e vedere sparire la partita nel momento magari del gol proprio perché fuori sta piovendo? Ecco, questo è l'uovo di Colombo dal quale noi siamo partiti per sviluppare Smart Rainfall System. Cosa succede? Quando piove, il segnale satellitare, quindi quello ricevuto dalle comuni parabole che abbiamo sulla nostra testa, viene attenuato, semplicemente attenuato. Tipicamente comincia a squadrettare, come si dice in gergo tecnico. Si vede quel disturbo a quadrotti che una volta quando avevamo i televisori analogici era la neve, no? Quel fruscio. Esattamente. Sul digitale diventano quadretti e poi a un certo punto addirittura può arrivare proprio ad andarsene del tutto a seconda di quanto intensa è la precipitazione. Ecco, questo è esattamente il principio sul quale noi lavoriamo. Quindi voi che cosa fate fisicamente? Montate sulle parabole che ci sono in giro una... I sensori. Allora, noi montiamo dei piccoli scatolotti di dimensioni di un paio di pacchetti di sigarette, per capirsi, a valle di queste parabole. Diciamo, noi prendiamo esattamente il cavo che va dentro i decoder, per capirsi, noi inseriamo dentro uno scatolotto, lo ritiriamo fuori, lo rimettiamo nel decoder, così che il servizio televisivo poi non sia compromesso. Certo. Nel senso, noi andiamo ad osservare quello che succede. Noi osserviamo questo segnale e da lì riusciamo a determinare in maniera comunque matematica quelli che sono i millimetri orari di pioggia che stanno effettivamente precipitando nella zona di atmosfera che è contenuta nella tratta, diciamo, che congiunge la parabola con il satellite. Ok, quindi in tutto quello spazio aereo verso il quale guarda la parabola sostanzialmente. E qui c'è già in realtà un primo vantaggio rispetto per esempio a un sistema tradizionale come il pluviometro, che dice cosa succede lì su quel metro quadro di terra, ma niente di quello che sta succedendo nell'atmosfera lì sopra. Ci sono dei vantaggi di questo sistema anche rispetto al molto più costoso radar meteorologico, appunto. Sicuramente noi abbiamo la possibilità, utilizzando le antenne paraboliche, di avere a disposizione molti più punti di misura, quindi una rete molto più capillare e fitta per un campionamento del dato, quindi un dato sicuramente che va a darci un'informazione molto più puntuale su quello che avviene su un bacino piuttosto che un altro, anche a distanza di poche centinaia di metri. Peraltro è un sistema che risulta essere più robusto. A questo punto, se un sensore non sta funzionando, certo, è molto meno critica. Niente di grave. Invece è molto assolutamente critica nel caso del radar, in quanto ce ne sono pochi. Si pensi a un caso pratico, il Destino, nell'alluvione del 2011 che abbiamo avuto a Genova, il radar che diciamo monitora la situazione sulla Liguria era spento per un suo malfunzionamento. Ecco, a proposito di Genova, immaginiamo che un sistema come il vostro fosse stato già disponibile per esempio durante gli ultimi eventi alluvionali di qualche anno fa e quello di quest'anno. Sarebbe cambiato qualcosa? Un esempio molto pratico: 2011 2014 sono esondati entrambi i fiumi, Ferreggiano e Bisagno, una volta nel 2011 più il Ferreggiano e una volta nel 2014 adesso più il Bisagno. Sì. La distanza dei due bacini è veramente pochissima, poche centinaia di metri a monte. Questo ci fa capire come in realtà poi le conseguenze al suolo, le conseguenze nel centro città siano state decisamente diverse. Aver avuto in tempo reale il dato di pioggia che cadeva sull'uno o sull'altro bacino avrebbe permesso di capire in maniera più rapida dove poter intervenire, avere quei pochi minuti, si parla magari di un quarto d'ora di tempo, comunque questo è l'ordine, per sapere dove andare eventualmente. Ecco. Grazie allora, grazie Caridi. Grazie a voi per l'intervista. È tutto, a domani.